Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. Siamo a te. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Benvenuti su Now Boarding Radio su Radio Sanonà in FM sui 102.200, un programma dedicato agli italiani all'estero. In particolare questa sera presentiamo la quinta puntata Focus On, nella quale andremo a trattare non un'esperienza di un nostro ospite, bensì andremo a approfondire una tematica. Un ciao a tutti da David e da Francesco. Ciao, ciao David. La nostra regia si mescola ancora. Sì, ultimamente è un continuo gioco delle coppie, Now Boarding. Come stai? Bene, non sta male, a te come va? Bene, bene, mi sperimento anch'io ogni tanto con la puntata Focus On e sono curioso di questa qui perché sarà abbastanza articolata, no? Quindi vogliamo cercare di capire dove siamo questa sera lanciando la canzone. Sì, vai tu con la prima traccia. Benissimo, lanciamo la prima traccia di David Bowie, Changes. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Size, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up and out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her neck. David Bowie con Changes, e proprio di cambiamenti, no? Parliamo oggi, David. Giustamente. Lo facciamo attraverso due siti. Uno, i nostri ascoltatori già lo conoscono, www.vogliovivereconosci.com, l'altro è mollaretutto.com. E poi lo faremo anche con, diciamo, un life coach, ovvero una persona che si occupa di qualche modo di seguire le persone nei loro cambiamenti e nella loro vita, no David? Ecco, interessante davvero. Quindi vogliamo tornare al primo sito che hai proposto. Sì. Quindi vogliamo presentare il nostro primo ospite. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera. Buonasera. Benvenuto, ciao. Benvenuto. Grazie, ciao, ciao. Allora, Alessandro è in qualche modo, no, il fondatore. Il fondatore, l'ideatore di questi due siti, e non solo, e anche altri. E non solo. Allora, per prima cosa gli chiediamo come gli è venuta l'idea di creare questi siti dedicati agli italiani all'estero. Ok, allora l'idea è nata molti anni fa, ancora parlo quasi di 10 anni fa, quando ancora internet era di prima che muoveva i primi passi, però comunque era ancora lobby per pochi. Il motivo è stato questo: per tanti anni ho fatto un lavoro che mi portava a viaggiare all'estero e in ogni paese che visitavo scoprivo che c'erano piccole comunità, italiani singoli. Praticamente erano popolati i vari paesi che visitavamo per lavoro di italiani che avevano lasciato l'Italia e che avevano deciso di reinventarsi altrove. Ho capito. E da lì mi sono detto: perché non creare un sito dove raccontare le storie di queste persone che hanno lasciato l'Italia e si sono rimessi in gioco da un'altra parte, facendo le cose più disparate, perché c'era chi aveva aperto una capanna e gli affittava in Messico, oppure chi faceva il cameriere in Turchia, un po' di tutto. Ecco, allora ti chiediamo se questo lo fai per lavoro oppure se rimane comunque un hobby. Allora guarda, è stato un hobby fino all'anno scorso, poi ho deciso di cedere la quota della società per cui lavoravo, che avevo costituito tra l'altro un socio, al mio socio, e di continuare questa avventura dedicandogli il tempo che secondo me meritava, e quindi è diventato da allora, dall'anno scorso, un vero e proprio lavoro a cui dedico l'intera giornata. E già questa, no, è una bella realizzazione in qualche modo di un progetto, di una passione che poi diventa anche il lavoro, credo, no? Sì, perché quando era nato come un hobby, però poi mi sono reso conto che dedicandogli del tempo e ovviamente la passione che era quella che ha fatto sì che il sito pian pianino crescesse, ho capito che poteva veramente diventare un'attività a tempo pieno e con degli sforzi, ma anche con dei rischi, come ovviamente tutte le attività imprenditoriali richiedono, mi sono buttato anima e corpo nel progetto. Certo, quindi tu hai iniziato con Voglio Vivere Così, poi ci ha un po' preso la mano e è arrivato anche mollaretutto.com, no? Sì. L'idea è nata perché su Voglio Vivere Così raccontiamo le storie delle persone che hanno cambiato vita, le intervistiamo, arrivano dei racconti spontaneamente, quindi diciamo che è un contenitore che permette alle persone di raccontarsi. L'idea era nata perché volevamo creare l'effetto, tra virgolette, emulazione, o meglio, far capire a chi dall'Italia si lamentava che le cose non vanno bene, che non trovano lavoro, che magari che era possibile comunque reinventarsi una vita all'estero. Perfetto. E lo facevamo e l'abbiamo fatto raccontando le storie di chi lo aveva realmente fatto, spiegando i pro ma anche i contro, cioè cerchiamo sempre di sottolineare che non sono tutte, cioè, non è sempre rosea. Certo. Certo, allora, visto che è un punto anche parlato di storie, eccetera, io lancerei una traccia, no David? Dopo questa introduzione, sì. Sì, e poi chiamiamo Geraldine, che ci spiegherà ancora meglio proprio come funziona dall'interno, possiamo dire, vogliovivereconosci.com. Quindi lanciamo Goti con Somebody That I Used To Know, una traccia che imperversa un po' in mezzo mondo, no David? Una volta tanto è anche una bella traccia. A dopo. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, and it's an ache I still remember. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. Bentornati ed ecco a presentarvi a voi il secondo ospite di questa sera. Una volta introdotto il tema, presentiamo parte della regia di questo progetto. Ciao Geraldine. Pronto? Benissimo, eccola qui. Eccola, ciao, benvenuta. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera, come stai? Molto bene, molto bene. Ci fa piacere. Ecco, a chiederti in che modo sei entrata in contatto con questo progetto. Sono entrata in contatto, come spesso succede nelle sorprese più belle della vita, devo dire abbastanza casualmente, attraverso una collaborazione che all'epoca avevo con un altro sito. Ho conosciuto Voglio Vivere Così attraverso una mia amica, una comune amica mia di Alessandro, e abbiamo iniziato a collaborare. Tra l'altro l'aspetto abbastanza curioso è che l'argomento del sito, nel momento in cui l'ho conosciuto, coincideva con un certo cambiamento nella mia vita, per cui l'ho considerato, più che un segno del destino, l'ho considerato di buon auspicio, ecco. Vedi come azzecchiamo le puntate, quando si parla di cambiamenti, qui sono cambiamenti su cambiamenti. E quindi tu di che ti occupi all'interno di Voglio Vivere Così? Io all'interno di Voglio Vivere Così faccio parte della redazione e mi occupo di scrivere alcuni degli articoli che vengono pubblicati e delle interviste che è possibile leggere all'interno del sito, per cui faccio lavoro giornalistico sostanzialmente. Era già il tuo lavoro in qualche modo questo, o è stata una... In parte c'erano state in passato appunto collaborazioni con altri siti, con altri portali, anche se io in realtà per tanti anni ho fatto la libraia, anche se appunto tra i cambiamenti che sono intervenuti nella mia vita, uno grosso ha riguardato anche la mia posizione all'interno della società. Insomma, dopo tanti anni ho preferito avere più tempo e per potermi dedicare ad altre attività che mi interessano più, che mi danno più soddisfazione e soprattutto mi lasciano molto più tempo a disposizione di quanto non possa fare una libreria. Sì. Come funzionano questi siti? Nel senso, come cercate voi le storie da raccontare oppure la gente che vi scrive per riportarvi le loro esperienze? Succedono entrambe le cose, anche perché ormai Voglio Vivere Così è sicuramente diventato un punto di riferimento per le persone, non soltanto per persone che sono riuscite ad espatriare, ma comunque per persone che in qualche modo hanno introdotto un cambiamento grande o piccolo nella loro vita, per cui ci sono tantissime, chiamiamole così, candidature spontanee, E poi c'è anche il lavoro che normalmente fa una redazione, il lavoro di ricerca dei contatti, insomma cerchiamo di navigare in rete per trovare quelli che possono essere i personaggi più interessanti da interpellare in qualche modo. Certo, le storie no, più interessanti e ce ne sono parecchie nel vostro sito, quindi immagino anche avrei conosciuto direttamente o indirettamente persone o anche le storie un po' più anche incredibili, curiose, no? È veramente incredibile vedere come ci sia intanto tanta voglia di rimettersi in gioco, quindi è anche un modo, se vuoi, intelligente di vivere un certo tipo di disagio, no? E nello stesso tempo è anche abbastanza curioso notare come, appunto, nonostante questa grandissima energia di tantissimi italiani, cioè viene da chiedersi per quale motivo invece in Italia, rispetto a tante cose, ci sia insomma, un clima forse un po' più depresso, ecco. Però ciò non toglie che abbiamo raccontato anche tante bellissime storie di cambiamento anche in Italia. Certo, infatti io definirei un po', Voglio Vivere Così, come un sito di belle storie, perché ci sono veramente molte belle storie, insomma, di persone che hanno realizzato i propri progetti, che hanno trovato la loro dimensione, no? Sì, sì, assolutamente. Infatti, come dicevo, sono una testimonianza di una grandissima ricchezza umana, comunque, indipendentemente dalla... come posso dire, dalla spettacolarità di alcuni cambiamenti rispetto ad altri, non è chiaro che, però in realtà ci sono anche storie di più basso profilo che comunque testimoniano una grandissima forza di rimettersi in gioco, come dice. E le storie più curiose che ti sono capitati? Ma guarda, devo dire che una delle ultime, a mio avviso, è stata quella di questa Barbara Magalotti, una pedagogista di Rimini, che ad un certo punto, per un caso assolutamente imprevisto, c'è stato quel piccolo episodio nella storia di ciascuno di noi che si chiama 11 settembre 2001, Sì. In conseguenza del quale lei ad un certo punto ha deciso che doveva provare a fare qualcosa per le persone più sfortunate di lei, e si è trovata in questo momento fa tra le altre cose l'educatrice nel carcere di La Paz in Bolivia. Tanto per dirne una, davvero molto molto bella, insomma, un po' per il lavoro che si è trovata a fare questa ragazza, ma soprattutto per la forza di volontà, direi quasi in alcuni momenti feroce, di proseguire con il suo progetto. Cioè, voi immaginate che cosa possa essere per una donna lavorare in un carcere come può essere il carcere di San Pedro alla Paz, con tutte le difficoltà e i soprusi che continuano ad esserci giorno per giorno, insomma, eppure non molla, proprio non indietreggia di un centimetro. Certo. E Geraldine, l'avete già pubblicata questa storia quindi sul vostro sito? Sì, assolutamente, è già leggibile. Ti ricordi il titolo, così ce la troviamo, o due parole chiave? No, come Barbara Magalotti, volontaria nel carcere di La Paz. Barbara Magalotti la trovate sicuramente. Benissimo, allora, ce l'andiamo a leggere, no, David? Giustamente, ti ringraziamo e lanciamo così la quarta traccia salutandoti. Grazie Geraldine. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. E quindi lanciamo dei Subsonica, Nuova Ossessione. Fuori, contro rientriamo in studio, Now Boarding Radio, puntata Focus On, incentrata sul cambiamento, e in particolare appunto abbiamo sentito Geraldine finora con la redazione di VoglioViverecosi.com, e torniamo con Alessandro. Alessandro, non ci hai abbandonato, vero? C'è ancora? Sì, difficile. Eccoti qua, benissimo. Ti chiediamo, rispetto a prima, se riesci a rimanere un po' più fermo davanti, sì, al microfono. Grazie mille. Ci provo. Grazie, grazie. Allora, Voglio Vivere Così, facci un po' capire meglio questa realtà. Da quante persone è composto, come vi organizzate un po' il lavoro, eccetera? Ma abbiamo una redazione abbastanza flessibile, formata da, ovviamente essendo una società giovane che è nata da pochi mesi, cioè che abbiamo formalizzato da pochi mesi, è formata da 4-5 giornalisti freelance che appunto scrivono le interviste. Poi abbiamo una pagina Facebook molto, molto visitata e molto seguita, dove appunto ogni volta che abbiamo un articolo, che pubblichiamo un articolo, lo pubblichiamo sulla pagina, e un forum dove gli utenti possono scambiarsi opinioni, possono comunque interagire tra di loro per raccogliere informazioni di prima mano. Certo, e se invece qualcuno volesse inviarvi le vostre storie, come fa? Guarda, quello lo può fare tranquillamente mandandoci un'email che trova sul sito, e se è scritta in italiano decente, cosa che spesso non avviene, no scherzo. Se la lontananza poi ti fa perdere un po' la lingua madre. Non perché non sanno scrivere in italiano, perché magari tanti anni che vivono all'estero e quindi un po' lo hanno dimenticato. Facciamo un leggerissimo editing di solito, quindi un lavoro di sistemazione, poi lo pubblichiamo. Anzi, invito tutti quelli che ci ascoltano, magari sono all'estero, a raccontarci la loro storia, che ce la mandino senza problemi, che per noi è una risorsa in più che pubblichiamo volentieri sul sito. Certo, e per chi volesse invece unirsi al vostro team? Ci può mandare tranquillamente la candidatura, sempre mandandoci un curriculum, e qualora ci fossero necessità, volentieri può iniziare a scrivere per noi. Bene, bene, quindi buone speranze. Sì. Certo, anche perché insomma è una comunità, soprattutto quella dei vostri lettori, cresciuta parecchio, moltissimo mi sembra in questi ultimi anni, no? Sì, si sta alimentando sempre più a causa purtroppo di questa crisi che spinge molti a guardare all'estero o a nuove attività imprenditoriali, perché non dimentichiamo che raccontiamo anche storie di chi si rimette in gioco nel nostro paese, magari licenziandosi e iniziando un'attività propria. Però ecco, sì, dicevo che appunto la comunità degli expat, di quelli che lasciano l'Italia, si sta purtroppo ripolpando, diciamo, a causa di questa crisi che ci sta colpendo. Che ci ha colpito, certo. E come sì, ti spieghi sì, il fatto che ci sono molti siti, appunto, molti, insomma, più di uno, noi ci abbiamo fatto un programma, insomma, che si occupano di questo argomento, però anche tanti italiani dall'estero che curano un sacco di blog, che vogliono raccontare questa esperienza, c'è tanto interesse attorno all'argomento. Come te lo spieghi? Guarda, vorrei dire una cosa. Tempo fa lessi una statistica che appunto cercava di capire quali erano i mestieri, le cose che gli italiani vorrebbero fare, e emerse che le prime due posizioni erano occupate: uno, aprire un ristorante; seconda, diventare scrittore. Quindi io penso che il proliferare dei blog sia dovuto al fatto che a molti, moltissimi, e giustamente, piace scrivere e piace raccontarsi, ovviamente. Quindi chi meglio di chi ha un'esperienza all'estero può raccontare direttamente la sua vita, la sua quotidianità, e ecco, quello che gli succede durante questa esperienza. Italiani, secondo me, i blog italiani, dicevo, popolo di scrittori, infatti, non per un nulla. Popolo, esatto. Non infatti. Guarda, ci sono tantissimi blog di grandissima qualità che recensiamo e pubblichiamo sulla nostra bacheca molto volentieri quando ce li segnalano, perché sono una risorsa e un valore aggiunto per la rete e per chi cerca informazioni prima di fare il grande passo. Ecco, domanda importante: com'è che vedi il futuro di Voglio Vivere Così? Allora, innanzitutto vi do una primizia, nel senso che il software che usiamo adesso è un software un po' vecchietto, nel senso il gestionale chiamiamolo. Quindi stiamo lavorando alla versione più funzionale, che sarà online tra un mesetto. Avremo diverse rubriche all'interno di questo nuovo sito, ed ecco, quindi quella sarà, diciamo, l'evoluzione a breve termine. Nel lungo termine io spero che diventi sempre più un punto di riferimento per chi cerca informazioni fresche e attendibili prima di prendere una decisione. Bene, e per quanto riguarda invece il fratellino di Voglio Vivere Così, cioè mollaretutto.com, se lo spieghi un po' meglio? Sì, hai detto bene, fratellino, perché è nato qualche mese fa, ed è nato perché ricevevamo tantissime richieste di informazioni pratiche e purtroppo, facendo interviste, raccontando le storie delle persone, noi spesso ci soffermavamo più sull'aspetto psicologico, sull'aspetto, diciamo, quotidiano della loro esperienza, lavorativo, eccetera, tralasciando un po', per forza di cose, spesso le informazioni pratiche. Abbiamo a questo punto cercato di ovviare a questa mancanza creando un sito molto più tecnico, quindi Mollare Tutto è costituito da schede paese che spiegano proprio concretamente, pubblicando link, indirizzi utili e cose di questo tipo, ecco, sui paesi che di volta in volta analizziamo. Quindi, non so, adesso siamo arrivati quasi a una trentina, abbiamo analizzato il Canada, l'Australia, la Thailandia, ecco, e per ognuno diamo informazioni e link specifici per trovare lavoro, per trovare casa, per ottenere il visto, ecco, cose di questo tipo. Sei stato veramente preciso, hai risposto in modo esauriente le nostre domande. Lanciamo quindi la prossima traccia, salutandoti e chiedendoti di rimanere in onda con noi. Senz'altro. E di Ferruccio Tagliavini, Voglio Vivere Così. Eh beh, non potevamo scegliere altrimenti, no? Cuore mio da fior a fior, con dolcezza e con amore, vai tu per me. Che la mia felicità vive sol di realtà vicino a te. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non basta niente. Oggi amo ardentemente con ruscello impertinente menestrello dell'amore. Ah, ah, la fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, se felice canto, canto per me. C'è l'impertinente menestrello dell'amore. Ah, la fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, c'è il sole in fronte, e felice incanto, canto per me. ...1941, Davide, questa traccia qua, eh? Niente niente, cosa siamo andati a rispolverare. Vediamo se, che dice, se abbiamo in onda, in linea anche il terzo ospite. Sì. Tre ospiti in una volta sola non abbiamo mai avuti qui a Nowboarding. Questo è vero. Sì. Fabio? Sì? Eccolo. Buonasera. Qua. Ciao, ciao, ciao, benvenuto. Benvenuto, ciao. Grazie. Fabio, sei, diciamo, potresti vincere il premio come ospite con il miglior microfono, il miglior audio, la migliore banda. Ah, è spettacolare, sono contento. Si sente una meraviglia, Fabio. Bene. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino prima, ma fa parte del nostro programma. Allora, Fabio, tu nella vita sei un... Io sono un life coach. Ok. E come... diciamo, noi partiamo da Voglio Vivere Così in questa puntata, quindi in che modo tu ti relazioni o hai a che fare con questi siti? Sì, io ho incontrato Alessandro virtualmente quasi 2 anni fa, gli avevo mandato la mia piccola storia di cambiamento e da lì poi abbiamo iniziato una collaborazione. Io per Voglio Vivere Così curo una rubrica e quindi scrivo dei pezzi sul cambiamento, sono dei pezzi dal leggero risvolto psicologico o sociologico, dove appunto vado a spiegare un pochino che cosa c'è dietro questa parola cambiamento, o che cosa spinge le persone a cambiare, o quali sono gli stimoli che impongono il cambiamento. E anche così un po' presuntuosamente andiamo anche a dire quali sono le cose a cui fare attenzione perché il cambiamento sia davvero un cambiamento importante. Certo, e in questo caso che persone incontri? O comunque c'è qualcuno che ti contatta? O... Sì, le persone che si rivolgono a un life coach sono quelle che nella vita hanno bisogno di scoprire o riscoprire quali sono i propri obiettivi, quali sono le proprie inclinazioni, di trovare un senso diverso alla propria vita. Ci tengo a sottolineare che questo che sto dicendo non deve sfociare nella patologia psicologica, perché non è la mia area di intervento, l'area di intervento di un coach. Sono persone quindi che stanno comunque bene, ma che hanno bisogno appunto di migliorare i propri risultati, di vivere meglio, di trovare situazioni più incline a se stessi. E sono anche persone che qualche volta, perché no, hanno bisogno di essere spostate anche di forza dai propri punti di vista, quindi ci sono persone che continuano a vedere la propria vita, le proprie situazioni nello stesso modo, quindi un punto di vista esterno, qualche volta anche violento nel senso buono del termine, può aiutare a vedere altre cose e a prendere quello slancio per cambiare. Certo, quella spinta in più, no? Assolutamente, quella spinta. E penso abbia una componente anche abbastanza forte sia nel tuo lavoro che in chi si rivolge a te, il sogno, no? Il desiderare, dire, la realizzazione di questo sogno. Ah, questo è fondamentale. Questo è fondamentale, avere a che fare con persone che comunque non stiano scappando, perché la differenza forte che facciamo sempre è una discussione che abbiamo iniziato con Alessandro rispetto a questo tema sul sito anche, è l'idea del cambiamento come fuga o l'idea del cambiamento come scelta. Quando il cambiamento si pone come fuga, bisogna stare molto attenti, fuga da qualcosa che non ci fa stare bene, fuga dal dolore, bisogna stare attenti perché è una situazione un po' pericolosa che va valutata con attenzione. Quando invece il cambiamento è sentito perché si segue il sogno, perché si ha davanti a sé l'obiettivo, il piacere e si pregusta il piacere di aver raggiunto quell'obiettivo, è tutto un altro viaggio. Certamente, quindi quali sono i consigli che daresti a chi sta per partire o comunque vuole cambiare la sua vita? Quali sono di solito i passi fondamentali? Ah, quello che ho detto adesso secondo me è la base fondamentale da cui non si può prescindere, quindi capire se si sta scappando o se si sta facendo una cosa oculata. Se si sta scappando bisogna avere anche il coraggio di dire mi fermo un attimo, rifaccio un po' il mio percorso mentale per definire bene qual è l'obiettivo, il mio voglio vivere così. Spesso le persone arrivano e dichiarano io voglio cambiare vita, e poi andando in profondità chiedendo che cosa vogliono davvero cambiare, non si capisce, proprio una vaghezza nell'obiettivo. Questo è il primo sintomo della fuga. Quindi l'idea è tanto più tu mi dici dove vuoi andare, tanto più mi dici quali sono le cose che vuoi raggiungere, più il tuo cambiamento è facile o comunque ha più possibilità di avere successo. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, per usare una metafora, è quella del svuotare lo zaino. Cioè? Non possiamo metterci in viaggio con uno zaino pesantissimo che ci toglie energia. Quindi prima di partire capiamo quali sono le cose che vogliamo lasciare a casa, che vogliamo abbandonare, le cose della nostra precedente vita che assolutamente non vogliamo portarci, e teniamoci nello zaino le cose importanti della nostra precedente vita. In tutte le vite, anche in quelle che vogliamo cambiare, c'è sempre qualcosa di bello da salvare. Quelle cose lì vanno nello zaino, le altre lasciamole fuori, così lo zaino è leggero. Quindi volevo chiedere, intanto Alessandro, ci sei ancora? Sì, qua. Ecco, scusa. Quindi ti ho fatto un po' un'improvvisato. Ti volevo chiedere, visto che di storie magari ne hai, cioè senz'altro ne hai lette, ne hai sentite tante, e, appunto, conta quindi avere le idee chiare, sapere bene cosa si vuole prima di affrontare questo cambiamento, e noi ci riferiamo in qualche modo all'espatrio, perché insomma di questo parliamo. E molte storie appunto sono a lieto fine, nel senso che la gente ha realizzato i propri progetti, ma sembra quasi che gran parte sia dovuto alla grandissima forza di volontà che questi ci hanno messo, perché hanno detto: io cambio tutto, ce la devo fare. Sei d'accordo con questo? Sì, sono d'accordo, nel senso che ci vuole quello prima di tutto, e poi ci vuole anche una buona programmazione, perché ovviamente la forza di volontà non è sufficiente. Se uno vuole pianificare un'impresa, vuole cercare lavoro all'estero, insomma vuole comunque raggiungere degli obiettivi, deve pianificare e muoversi di conseguenza, perché mandando a caso e senza un po' di sistematicità non si arriva da nessuna parte. Certo, quindi anche la mia domanda era: c'è il mito spesso dell'andare all'estero e poi tutto sarà facile, in realtà insomma al centro rimane sempre la persona, e quindi per assurdo magari ce la poteva fare anche in Italia con tutte le difficoltà, sì, certo, che ci sono. Certo, certo. Bene, e quindi abbiamo, insomma, io sinceramente non sapevo anche dell'esistenza di queste figure come quella di Fabio, ecco. E ci lasci qualche contatto, magari, Fabio, se qualcuno volesse in qualche modo sentirti, scriverti, non lo so, o saperne di più? Ma sicuramente se vanno sull'home page del sito, poi cercano nelle rubriche, trovano tutti i miei riferimenti. Per essere più diretti, e se vogliono scrivere a me per avere, vabbè, così consiglio per scambiare due idee, la mia posta elettronica è fabio.parietti@coachingtolife.com. Perfetto, quindi riepilogando un po' tutto: www.vogliovivereconsigli.com, www.mollaretutto.com. Nell'uno trovate forse quella spinta, quelle storie di chi in qualche modo ha già vissuto questa cosa, nell'altro diversi consigli pratici, giusto David? Giusto. Abbiamo anche due contatti. Abbiamo anche i nostri contatti. Ricordiamo che siamo su Nowboarding Radio, sui 102.200. Il nostro sito è www.radiosandona.it, il nostro blog www.nowboardingradio.wordpress.com. Ricordiamo che abbiamo come la pagina Facebook come Nowboarding Radio, e come ultima la nostra mail nowboardingradio@gmail.com. Perfetto, ce l'abbiamo fatta anche con i tre ospiti, no David? Non c'è male. Infatti. E, Alessandro, Fabio, grazie mille. Grazie a voi. Sì, continueremo a seguirvi su Voglio Vivere Così e su Mollare Tutto. Grazie per essere stati qui con noi questa sera. Ringraziamo anche Geraldine, che ci ha salutato un po' di minuti fa. Grazie. E lanciamo l'ultima traccia, no Francesco? L'ultima traccia, il titolo dice tutto: Go di Moby. Ciao ragazzi, ciao agli ascoltatori. Ciao, grazie ancora. Ci vediamo il prossimo mercoledì ciao. Con Nowboarding Radio.